Ecco, Racconti di vita è una trasmissione che tutti noi seguiamo, è importante ed è, mi sembra, ad un'edizione già avanzata, sono diverse le edizioni. Eh sì, guarda, Don Paolo, siamo ormai, da che io sono a Rai 3, sono passati quasi 5 anni, anzi sì, 5 anni, diciamo che l'edizione serale, cioè quella delle seconde serate, è iniziata l'anno scorso, quindi è relativamente giovane, recente come impegno, sì, insomma, a 2 anni questa cosa dei documentari che vanno in onda la sera. La sera, al martedì. E però ci stanno dando tanta soddisfazione. Sì, tanta soddisfazione, perché è un modo di fare televisione dove possiamo esaltare al massimo l'utilizzo del linguaggio televisivo, ma nello stesso tempo far salvo anche la necessità etica di raccontare la realtà sociale, certo. Perlomeno l'urgenza etica è una cosa che io sento molto, quella di raccontare ciò che c'è intorno a noi e che generalmente non vediamo, perché appunto la televisione in realtà è molto, selezionando molto, è molto parziale, nel senso che ci dà del mondo delle visioni parziali. Andando alla ricerca di quegli altri mondi che spesso sfioriamo, di cui sentiamo parlare. Per carità, io non voglio essere quello che dice che siamo gli unici che fanno certe cose, però diciamo, noi ci siamo assunti il compito di avere un rapporto diverso con la realtà, e lo facciamo utilizzando al massimo la possibilità dei linguaggi televisivi, perché io spesso insisto nel dire che con il sociale si può fare molta buona televisione e tanta televisione, nel senso non una televisione statica, non una televisione rituale, non una televisione insomma che si autoriproduce, che comunica su se stessa, che si, insomma, autoreferenziata. Si può fare invece una televisione che utilizza anche le tecnologie più recenti, insomma. Penso solo, adesso faccio un esempio per intenderci, sì, certo. Utilizzo ad esempio delle piccole telecamere portatili, di ripresa, insomma, sì, le piccole portatili sono ormai diventate un elemento che integra fortemente quello delle telecamere professionali, sì. Utilizzate dai network, insomma, e quindi dimostra che in realtà puoi davvero fare un grande lavoro proprio anche sulla comunicazione, cioè sul linguaggio, e quindi è per quello che ci piace molto Racconti di vita, perché certo. Tiene insieme queste due cose, cioè utilizzare al massimo la televisione e dall'altra non rinunciare ai contenuti. Ecco, e diciamo, tu ne sei stato, oltre che essere il produttore e il realizzatore, sei stato l'ideatore naturalmente di questa esperienza, così possiamo chiederti come è nata, ecco, quest'idea, l'idea di, l'esigenza, direi, anche sentire le due parole, di proporre ai telespettatori in questo modo questi racconti. Ma guarda, io sono ormai, insomma, fa sempre un po' brutto andare indietro con la memoria, insomma, sono un bel po' d'anni che mi relaziono al mondo sociale, lo faccio con grande passione, grande interesse, curiosità, e anche perché sto avendo delle grandi lezioni di vita nel mio lavoro, relazionandomi appunto a queste realtà. Quindi non è che, cioè, voglio dire, è stato quasi un mettere a disposizione ciò che in questi anni ho costruito, cioè chi fa il mio mestiere, o perlomeno chi lo fa come io lo intendo, come lo sto facendo, si mette al centro di una rete tale di relazioni personali, individuali, col mondo delle associazioni, del volontariato, delle parrocchie, dei gruppi, dei comitati, dei cittadini singoli, delle storie, cioè che alla fine hai costruito un reticolato di umanità straordinario, vitale, anche sofferente per certi aspetti, ma che ha tanta voglia di rispondere alla sofferenza, al disagio, che io ogni anno ho delle cose nuove da raccontare. Sono un po' le cose che mi vengono incontro, non è che io ci ho messo tanto del mio, cioè io ci ho messo la mia voglia, sì, no, ci ho messo la mia voglia, il mio interesse, la mia curiosità, anche la mia sfida, perché tante volte ci sono delle cose che dico, ma Dio, non ce la farò a raccontarle, sono troppo complicate, in televisione magari non funzionano, sì. Poi magari le metto da parte per un anno, però sono sicuro che l'anno successivo mi tornerà fuori quella roba lì, e poi prima o poi la farò, e così è stato per tutto, cioè tutte le cose che ho anche accantonato magari per un periodo, poi la volta successiva mi sono saltate fuori, no? E le ho fatte, allora poi ho la soddisfazione di dire, vedi che poi dai e dai le cose poi si riescono a fare, e quindi diciamo che è un po' la realtà che mi sollecita, io appunto metto a disposizione quel poco di esperienza che ho, l'opportunità di lavorare in Rai, anche questa è un'altra certo. considerazione da non dimenticare, cioè siamo servizio pubblico e nel servizio pubblico si possono fare queste cose, cioè si può andare meglio incontro alla realtà non avendo vincoli di altro tipo, ma se non la necessità di la coscienza di dover parlare ai cittadini, a chi ti segue e la voglia di proporgli appunto degli scampoli di realtà filtrati attraverso la coscienza e l'etica di un operatore della comunicazione del servizio pubblico, cioè io queste cose le posso fare in Rai, certo. Quindi io non smetterò mai di dire grazie a questa azienda che dà la possibilità alla realtà di raccontarsi. Quindi è un po' un concorso di cose, la realtà ci mette il suo, io ci metto quel poco che ho e poi la Rai naturalmente ci mette la sua, e quindi Rai 3, quindi il direttore, i capi strutture, sono tutti quelli che poi alla fine ci credono, certo. per raccontare la realtà sociale. Quindi diciamo, io credo molto nella cooperazione, quindi nella rete di cose che si mettono insieme e anche poi nelle intese che si creano, cioè io ho creato intese con il mio gruppo di lavoro, con i dirigenti della terza rete, con questa rete, con la Rai, io sono 20 anni e sto sempre nel Rai, non certo. ho mai pensato proprio di andarmene, non troverei altro luogo migliore per fare questo lavoro, quindi diciamo che tutto questo è il frutto di un'alleanza, cioè questi programmi sono frutti di alleanza tra la realtà che si propone, i comunicatori, i responsabili dei palinsesti, i dirigenti di un servizio pubblico e di una televisione pubblica. Ecco, questo se devo dire come nascono poi certo. queste cose. Certo, io ci metto molto del mio perché sono appassionato di questa. Mi ci sono trovato, insomma, io non lo so, è sempre un po' difficile parlare di se stessi quando in realtà poi alla fine ti trovi a capire che racconti delle cose talmente intense, talmente belle, talmente forti, che sono così vere, insomma c'è quella verità delle cose che percepisci e dici diamine, questa è proprio una bella cosa, cioè vedi la gente vera, conosci, e allora è uno scontro, soprattutto se penso all'oggi, tra questo reality vero e tutta la fuffa televisiva che vediamo in questi. Allora mi scatta ancora di più il desiderio di dire no, noi ci dobbiamo essere, dobbiamo marcare la nostra differenza, dobbiamo dire che c'è quest'altra realtà, che quell'altra è costruita, è finta, è inventata e per carità può anche essere in qualche modo placare il bisogno di medesimarsi, di riconoscersi in tutto questo mondo patinato di plastica, però noi ci mettiamo, come dire, una nota che stona rispetto alla maggioranza di quello che si vede. Allora, questo è un po' il senso dell'idea.